Verso l'approssimarsi del termine, smise di sentirsi debole e intorpidita, e benché le sue notti fossero totalmente insonni oppure popolate di sogni particolarmente orripilanti, le giornate divennero placide, di quella greve placidità e mancanza di apprensione che rasenta la mansuetudine bovina. Nonostante l'arrivo della primavera avesse già asciugato le strade, ella non osava portare a passeggio per il villaggio quel corpo ridicolmente impacciato, pur sapendo che si trattava di un involucro benedetto. Non poteva non notare che era al contempo vergognosamente goffo. Trascorreva pertanto le ore nel giardino in boccio, passeggiando avanti e indietro per i due sentieri disponibili, quello sul limitare dei campi di segale che ora risplendevano del verde più vivido, oppure quell'altro che correva lungo il lato est della casa, passando sotto le finestre del laboratorio di Robert, dove crescevano i cespugli di lillà. Il tavolo di Robert era collocato all'angolo retto rispetto all'ultima finestra e lei spesso sostava lungo il sentiero per osservare il marito con il capo chino sul lavoro, in una sorta di ostinata concentrazione che l'assorbiva ora dopo ora. Teneva le finestre chiuse, poiché la primavera lo disturbava, visto che essa, caparbia, tendeva a voler invadere a tutti i costi il suo territorio, talvolta portando scompiglio tra le sue carte o gettando una manciata di bocce di lillà tra i suoi campioni di segale, oppure ancora inviando un'ape operosa a ronzargli rumorosamente nelle orecchie. Ogni giorno, Ingeborg passeggiava avanti e indietro lungo quel sentiero e poi ancora di nuovo numerose volte, facendo del moto secondo le raccomandazioni della baronessa Glömbeck. Per 3 settimane quello fu per lei l'angolo più glorioso di tutto il creato, fiancheggiato com'era su entrambi i lati da vetusti cespugli di lillà, che una volta in fiore costituirono per lei una vera e propria rivelazione dopo i lillà radi e frugali del giardino di Redchester. Sopra i cespugli ondeggianti, la cui bellezza stava nella somma del delizioso effluvio, della forma sinuosa e della particolare tonalità di colore, Ingeborg, ogni volta che giungeva alla fine del cammino e compieva un'inversione per ritornare, riusciva a intravedere la testa color stoppa di Robert, china sopra il tavolo presso la finestra. Quelle 3 settimane di lillà in fiore e di bel tempo trascorse lungo il sentiero profumato, con Robert bene in vista assorto nel lavoro, furono la parte migliore di quei 9 mesi. Adorava poterlo vedere, perché tanto bastava a costituire una forma di compagnia. Entro giugno tutto era pronto. La nursery era stata allestita, la culla approntata e guarnita con merletti, una carrozzina azzurra in attesa del suo occupante era parcheggiata in corridoio, costruendo il passaggio, mentre pile ordinate di vestitini riempivano l'armadio. Frau Dosch, la levatrice dalla chioma canuta, e dalla conversazione indecente era stata interpellata chiedendole di stare allerta. L'idea di contattare un medico per allertarlo a sua volta non sarebbe mai venuta in mente a Ingeborg e nessuno glielo suggerì. Tale figura in verità fu menzionata una volta dalla baronessa Glömbeck, il cui interesse, che aumentava con il passare dei mesi, la portò a far visita svariate volte. Ma solo con parole vaghe, come qualcuno da convocare soltanto nel momento in cui l'ostetrica giudicasse che la paziente avesse raggiunto lo stadio descritto dalla baronessa come situazione disperata. Sembrava infatti che solo allora la legge obbligasse l'ostetrica a chiamare un dottore. Comunque vi è molta differenza, osservò la baronessa, tra il credere di essere in una situazione disperata e l'esserlo realmente. E continuò nella sua oratoria, spiegando che in tali occasioni la paziente tendeva molto spesso a mostrarsi prevenuta e a giungere precipitosamente alle conclusioni. Ecco perché saggezza imponeva che tale decisione fosse rimessa nelle mani dell'ostetrica. Sì, disse Ingeborg placidamente. Di certo, disse la baronessa, questo procedimento si differenzia in larga misura da una malattia, dato che in realtà non lo è affatto. Sì, ripeté Ingeborg con immutata placidità. E quando mi riferisco alla paziente, in realtà non intendo una paziente vera e propria, dato che senza malattia non vi può essere paziente. No, disse Ingeborg placidamente. Così come senza paziente non vi può essere malattia. Già, convenne Ingeborg sempre più placidamente. Se ne stava appoggiata all'indietro su una sedia bassa in giardino e osservava il sole splendere oltre la sommità dei tigli, poiché era ormai la fine di giugno. Sembrava tutto molto soddisfacente. Nessuno era malato, nessuno si sarebbe ammalato. Vi sarebbe stato un momento di difficoltà che sarebbe stato affrontato con pazienza e con l'ausilio di Frau Dosch, ma nessuna malattia. Solo l'intervento di Madre Natura che avrebbe seguito il suo corso. E poi. E sembrava davvero troppo meraviglioso che poi, anzi prestissimo, forse già entro una settimana o due, sarebbe nato il suo bambino. L'avrebbe amato con la passione amorosa conosciuta solo a colei che è madre. E lui avrebbe colmato di gioia la sua vita, donandole una felicità così assoluta che non avrebbe mai desiderato altro se non dedicarsi a lui. O perlomeno questo era quanto le avevano detto. Dal canto suo, lei vi aveva aggiunto che il figlio avrebbe avuto la stessa mente brillante di Robert, ma più tempo libero. Il suo stesso ingegno, ma non il laboratorio, e non sarebbe stato in grado, e anzi non l'avrebbe nemmeno desiderato, di uscire dalla sua carrozzina per rinchiudersi da qualche parte, lontano da lei, per mettersi a contare i chicchi di segale. E non si sarebbe infastidito, anzi, l'avrebbe di gran lunga preferito se Ingeborg, vogliosa di baci, avvicinandosi a lui, l'avesse distolto dai suoi pensieri. E a lungo, per anni e anni, sarebbe stato il suo più intimo e caro compagno, colui che avrebbe remato assieme a lei sul lago, colui che le avrebbe tenuto compagnia durante le peregrinazioni negli sterminati boschi creati da Dio. Nei suoi occhi luccicavano lacrime di gioia al pensiero che presto, una volta tornato in possesso della figura snella di un tempo, avrebbe potuto tenere stretto fra le braccia questo prezioso essere e portarlo con leggerezza, senza alcuna fatica, fuori, in giardino, per indicare a quei giovani occhi sgranati la traboccante bellezza dell'universo. Le avrebbe mostrato i campi di segale e la volta infinita del cielo, le rane e il tarabuso. E quanto fosse delizioso starsene a faccia in giù sull'erba calda di sole, dove crescevano i ciuffi di timo, per osservare la vita che brulicava tra i fili d'erba e le radici. Avrebbe insistito affinché osservasse le cicogne ritte in piedi nei nidi costruiti sul tetto della stalla e il modo in cui la luce metteva in risalto i contorni delle ali bianche e come la tonalità di rosso delle loro zampe fosse simile al rosso dei salici quando a marzo venivano cimati. E di notte, se fosse stato così malaccorto da non dormire, e l'avrebbe portato presso la finestra e avrebbe lasciato che nella sua mente vergine si imprimesse la visione delle luci di mille piccole stelle splendenti. Che meraviglia il poter pensare che prima della completa fioritura dei lupini arancioni, quel dono d'agosto, ella sarebbe stata di nuovo all'aperto, immersa nella loro fragranza, questa volta con suo figlio però, quella creatura che era carne della sua carne e sangue del suo sangue, il suo Robert Lee. La baronessa Glambeck osservò con curiosità il viso di Ingeborg, mentre sdraiata all'indietro sollevava lo sguardo sugli alberi e si illuminava di un sorriso divertito. Era chiaro che Frau Pastor era in memore della sua presenza e persino l'approssimarsi all'ora della difficoltà non poteva spiegare o scusare una tale scorrettezza in materia di convenzioni sociali. A dire il vero, Frau Pastor riceveva le sue visite con una singolare assenza di motivazione ed era chiaro che mancava totalmente di comprendere il grande onore a lei attributato, un atteggiamento quasi ai limiti dell'imperdonabile. Si comportava sempre come se fosse una pari grado e per giunta una pari grado particolarmente accanita. Molto comunque poteva essere perdonato a una persona che non solo era di nazionalità britannica, una nazione che la baronessa aveva sentito descrivere come incivile, ma era anche molto prossima al suo primo parto. Quando questo avesse avuto luogo, allora vi sarebbe stata una nuova ridefinizione dei loro rapporti sociali, ma intanto era impensabile arrabbiarsi sul serio con lei. La sua terribile e stupefacente ignoranza riguardo a tutti i fatti connessi alla nascita di un bambino rendevano impossibile anche solo portarle rancore. Ingeborg ricordava alla baronessa una pecora che si avviava tranquillamente al macello, assaporando il piacere della passeggiata e non ponendosi il minimo interrogativo su che cosa l'aspettasse alla fine del percorso. Per un attimo si chiese se fosse usanza di ogni madre inglese tenere le proprie figlie di un'ignoranza così mostruosa riguardo all'argomento più importante nella vita di una donna. Per qualche incomprensibile motivo, l'aria estremamente placida sul viso di Ingeborg, mentre osservava la sommità degli alberi, fantasticando sul suo bambino, irritò la baronessa. «Farà male, sapete?» le disse. Ingeborg riportò il suo sguardo lentamente a terra e la fissò per un attimo. «Che cosa?» «Farà male!» ripeté la baronessa. «Oh sì, lo so!» «Ma sarà tutto molto naturale?» «Certo che sarà naturale. Ciò nonostante...» La baronessa si arrestò all'improvviso, serrò le labbra e scosse il capo tre volte in successione, suggerendo con alcuni gesti e un'espressione di terrore l'idea di ciò che il futuro aveva in serbo per Ingeborg. Ingeborg la scrutò in volto ed improvviso alcune parole emergenti dai ricordi dei giorni in cui frequentava la cattedrale le balzarono alla mente. Se n'era totalmente dimenticata, ma ora la memoria iniziava a comporle un quadro pregno di significato. Le sembrava provenissero da qualche passo del testo liturgico della Chiesa anglicana. Si trattava forse della litania? No. Comunque si trovavano di certo in quel testo così veritiero il libro delle preghiere. Come dicevano? Sì, ecco, ora ricordava. Il grande pericolo del parto. Sì. E poi ancora il grande dolore e i rischi del parto. Un'ondata di rossore le imporporò il viso e per la prima volta apparve nei suoi occhi un lampo di paura. Si tirò a sedere ben dritta appoggiandosi su entrambe le mani, gli occhi puntati sulla baronessa. «È davvero così terribile?» chiese. La baronessa si limitò a scuotere il capo. «Non può esserlo troppo», proseguì Ingeborg, fissando la baronessa in cerca di consenso. «Altrimenti non vi sarebbe in giro neanche una madre sopravvissuta, non credete?» La baronessa, imperterrita, non smetteva di serrare le labbra e scuotere il capo. «Deve pur essere sopportabile», disse di nuovo Ingeborg con aria ansiosa. Ma la baronessa non aveva nessuna intenzione di sbilanciarsi. «Vedete, sarebbero tutte morte se non lo fosse. Tutte le madri, intendo dire. Invece sembra che...» insistette con voce tremante, tanto il desiderio che la baronessa la tranquillizzasse, «che ve ne siano in giro ancora molte». Fece una pausa, ma la baronessa continuava a non impegnarsi in alcun senso. «Potrei tollerare qualsiasi cosa», disse Ingeborg, sfoggiando sia una certa dose di coraggio che di voce tremula, «purché sia ragionevole». «Non si tratta di ragionevolezza», ribatté la baronessa. «Si tratta della volontà di Dio». «Ma è la stessa cosa, esattamente la stessa cosa», disse Ingeborg gettandosi all'indietro sui cuscini e strappando i petali ad alcuni garofani bianchi che aveva testé odorato. Si vergognava di provare tanto terrore. Era per via del suo corpo deforme. Bastava guardarlo per capire che solo attraverso qualche spaventoso parossismo di convulsioni sarebbe potuto ritornare ciò che era stato 9 mesi prima. Come si era dimostrata cieca, sino a ora non accorgendosene. Per tutta la serata, tentando di contrastare quella sensazione di paura, rimase nervosa e inquieta. Mentre Robert a tavola consumava la cena, Ingeborg, non riuscendo a star ferma, camminava per il soggiorno, premendo una contro l'altra le mani gelide, sperando che la tranquillità dei consueti riti familiari la riconducesse alla ragione. Ma davvero il dolore poteva essere tanto insopportabile da far sì che qualcuno ne morisse? E che modo di morire, ma che modo? E rimase immobile, un istante, osservando la testa scura del marito, ferma e china sopra la cena. Poi d'impulso si accostò a lui e gli passò velocemente entrambe le mani fra i capelli, da qualche tempo non regolati da un taglio, lasciando una serie di creste ritte. «Ecco», disse, «adesso sì che sei davvero carino», e si chinò per baciarlo sulla nuca, indugiandovi a lungo. Lui era lì vicino, era vivo, e se non altro lei poteva tenerlo stretto a sé per un po' prima di avviarsi in tutta solitudine verso ciò che di gelido, tremendo e ignoto la attendeva. «Brava mogliettina», disse senza guardarla e senza smettere di mangiare, ma allungando il braccio sinistro per cingerla mentre con il destro continuava a svolgere le azioni necessarie al proseguimento della cena. In quel periodo la forza dei suoi sentimenti si era annacquata fino a diventare una blanda teoria. Per lui Ingeborg non era più una moglie, benché continuasse a chiamarle tale. Era più che altro una verdende Mutter. Comunque, sarebbe stato ben lieto quando gli fosse stata restituita. Il giorno successivo, Ingeborg ricevette una lettera da Mrs. Ballivant, proveniente dalla residenza del rettore, College di Annanay, Oxford. «Può interessarti sapere», le scrisse Mrs. Ballivant, «che tua sorella ha avuto una bambina. La piccola è nata quest'oggi all'alba. La veglia mi ha estenuato. È una bella bambina e sia madre che figlia stanno bene. Io invece no, per nulla. Ha assistito alla nascita l'eccellente dottor Williamson, della cui presenza sono stata molto grata, e devo dire che senza di lui non saprei proprio che cosa sarebbe accaduto. Alla cara Judith è stata pietosamente risparmiata la conoscenza di che cosa davvero comporti quell'esperienza, dato che è stata tenuta sotto cloroformio. Ma io, che sapevo, mi sentivo sconvolta. Rimpiango il fatto di non aver ricevuto a mia volta una dose di cloroformio. Mi avrebbe certamente aiutato a mitigare quelle ore di ansia indicibile. Ora soffro terribilmente per via dello shock e mi ci vorrà parecchio tempo prima che possa ristabilirmi. Il dottor Williamson afferma che in queste occasioni i soggetti per cui prova più compassione sono le mamme delle mamme. Tuo padre. A quel punto Ingeborg lasciò cadere la lettera sul pavimento e rimase seduta a pensare. Quando quella sera Robert rientrò per il desinare, provenendo accaldato e soddisfatto dai campi che promettevano molto bene dopo gli abbondanti rovesci mirabilmente tempestivi, ella gli servì la cena. Astenendosi dal parlare fino a che non l'ebbe consumata tutta ed ebbe iniziato a fumare. Allora gli chiese se anche lei sarebbe stata anestetizzata con il cloroformio. Cloroformio? Ripeté fissandola mentre con il pensiero ritornava a indugiare piacevolmente tra i campi. E perché mai? E di modo che io non debba vivere tutto in prima persona? Mamma mi ha scritto che a Judith è stato somministrato. Ha avuto una bambina. Herr Dremmel si levò il sigaro dalle labbra e scrutò la moglie, che seduta come di consueto di fronte a lui con il mento poggiato tra le mani e i gomiti sul tavolo, lo osservava con sguardo allucinato. «Ma è pura vigliaccheria!» le disse. «Io voglio il cloroformio!» disse Ingeborg. «Ma è contro natura!» tentò di convincerla Herr Dremmel. «Io lo voglio ugualmente!» ripeté lei. «Non ti aspetta altro che un processo del tutto naturale!» disse Herr Dremmel tentando di essere paziente. Come andare a letto la sera e risvegliarsi il mattino dopo. Può anche essere altrettanto naturale, disse Ingeborg, ma non credo sia così piacevole. Voglio il cloroformio. Cosa? Non è piacevole. Definiresti così ciò che ti introdurrà al supremo? Sì, lo so, ma ho il presentimento che mi ci introdurrà in modo piuttosto violento. Voglio il cloroformio. Dio stesso, affermò Herr Dremmel con solennità, ha concepito tale processo e non sta a noi criticare. È la prima volta, disse Ingeborg, in cui ti sento parlare come un vescovo. Sembri proprio uno di loro. Quando si tratta del dovere supremo, disse Herr Dremmel con severità, e qui si parla dell'azione più sacra, più elevata, che essere umano possa compiere. Tutti gli uomini sono credenti allo stesso modo. Sì, forse, disse Ingeborg, ma tutte le altre persone, quelle che non sono uomini, esigono del cloroformio. Nessuna donna sana di normale costituzione ne ha bisogno, affermò Herr Dremmel, assai irritato dalla sua insistenza, e nessun dottore lo prescriverebbe. Oltretutto, l'ostetrica non ha licenza di somministrarlo. Perché mai non riconosco la mia mogliettina intelligente che sa benissimo come non le venga chiesto altro se non di comportarsi al pari di tutte le altre donne. Non vedo che cosa c'entri questo con l'intelligenza, disse Ingeborg. Io comunque voglio il cloroformio. Herr Dremmel guardò costernato gli occhi lucidi e le guance arrossate della moglie. Sino a quel momento, ogni qualvolta si menzionava la sua condizione, ella se n'era sempre rallegrata. Lui del resto non avrebbe potuto concepire un comportamento diverso. In effetti gli sembrava che in tutto il periodo della gravidanza sua moglie avesse dato prova di uno stato d'animo perennemente positivo. Non era mai caduta preda di quei ghiribizzi che sapeva colpivano certe donne. Aveva sempre goduto di ottima salute ed era sempre stata libera dall'intralcio di qualsiasi complicazione. Occasionalmente aveva subito mutamenti d'umore e talvolta l'aveva trovata sdraiata sul divano. D'altro canto era ben noto che in quel particolare frangente le donne tendevano a impigrirsi. Tutto si era svolto in modo assolutamente normale. Che cos'era allora quel ritrarsi di fronte all'approssimarsi del grande evento? Dell'incapacità di essere coraggioso in circostanze del tutto usuali, come ogni altra donna del paese. Si trattava di un capriccio sgradevole, disgraziato, il più disgraziato che lei avesse potuto concepire. Si era preparato ai capricci e non aveva nessuna intenzione di assecondarla, naturalmente. Aveva sentito dire che gli anestetici somministrati in quelle occasioni erano dannosi, oltre che superflui. La cosa migliore per il bambino sarebbe stata l'assenza di qualsiasi intervento. Se non quello di madre natura, e ad essa bisognava lasciar mano libera. Sapeva, data la sua esperienza agricola, che la natura non sempre si dimostra saggia, ma era comunque convinto che in quel particolare campo fosse imperativo affidarsi a lei sola. Se sua moglie fosse stata così delicata da non sopportare un po' di dolore, che razza di figli gli avrebbe mai dato? Una razza di pusillanimi, di uomini senza spina dorsale che correvano a nascondersi per ogni nonnulla. E pensare che lui non si era mai lasciato somministrare alcun anestetico, nemmeno quando gli avevano cavato 3 denti durante una sola seduta. L'anno prima, per quanto il dentista avesse insistito, e lì si trattava solo di denti, oggetti di nessun valore una volta tolti. Ma avere il proprio figlio, minorato fin dall'inizio perché la madre non riusciva ad essere un po' meno egoista e a sopportare un po' di dolore per il suo bene. Ingeborg si alzò e, cingendogli il collo con le braccia, gli sussurrò in un soffio: Robert, ho paura, ho tanta paura. Allora egli la prese sulle ginocchia, o piuttosto tentò di compiere quell'azione, ma trovando che era diventato impossibile, si avviò verso il divano assieme a lei, circondandola con le braccia e invitandola a sedere accanto a sé mentre cercava di farle intendere ragione. Discusse con lei per 20 minuti, impegnandosi a rassicurarla e a mostrarsi paziente. Le spiegò che in realtà non era davvero impaurita, ma che a causa delle sue condizioni fisiche si figurava di esserlo. Ingeborg, parecchio interessata all'argomentazione, ammise prontamente che non era da escludere. Le raccontò del coraggio semplice delle altre donne di Köthense e Ingeborg non poté che dichiararsi d'accordo, essendone lei stessa testimone ogni giorno. Proseguì ricordandole come Dio avesse disposto che la donna partorisse con dolore, ma lei divenne irrequieta e prese nuovamente a parlare di vescovi. Egli le disse che si sarebbe trattato solo di qualche ora di sofferenza, forse anche meno, e che in cambio quel figlio li avrebbe ricompensati con una vita colma di gioia. Ingeborg ascoltò attenta, rimase in silenzio per qualche minuto, poi lasciò scivolare la mano in quella di lui. Inoltre, Herr Dremmel l'informò di come non fosse da escludere che, abbandonandosi alla paura, avrebbe potuto nuocere al bambino, e se così fosse stato, non pensava che successivamente avrebbe trovato difficile perdonare se stessa. Ingeborg si tirò allora a sedere di scatto, assumendo un'aria che esprimeva coraggio e determinazione. In ultimo le spiegò che gli anestetici, intorpidendola seppur per un breve lasso di tempo, avrebbero finito per causarle ulteriore disagio, prolungando il parto e magari danneggiando il piccolo, financo a provocarne la morte per asfissia. Queste parole completarono la cura. Un ardimento sterminato si sostituì alle sue apprensioni. Si sollevò dal divano mostrando coraggio all'eccesso, il viso ardente per la smania di dimostrarle fin da subito i patimenti che sarebbe stata in grado di tollerare con il sorriso sulle labbra. Come se, disse sollevando il mento, io non potessi sopportare quello che tutte le altre donne sopportano, come se io non fossi determinata a soffrire qualsiasi pena piuttosto che far del male a mio figlio. E così dicendo, gettò all'indietro il capo con aria di sfida, andando incontro alla grande prova che l'attendeva. Suo figlio, suo marito, la sua casa felice. Soffrire per loro sarebbe stato un bellissimo sacrificio, benché un piccolo atto, forse troppo piccolo, da deporre ai piedi di quel sacro altare. Se qualcosa fosse stato ancora in grado di trasfigurarla, allora quei pensieri fulgidi l'avrebbero di certo fatto. Ma nessun pensiero, per quanto fulgido, avrebbe mai potuto far breccia attraverso il suo corpo sgraziato. In quella fase il suo profilo non era di certo il più adatto ad assumere pose di eroismo e della sua persona non era solo l'elemento ad essere diventato doppio. La sua figura appariva estremamente bizzarra, appesantita, l'apparenza invecchiata, goffa e imbruttita. Se ne stava alle ritte, esprimendo in toni appassionati la sua volontà di reagire alla paura. Herr Dremmel, dopo aver inconsciamente assimilato quella visione e seccato per aver dovuto spiegare qualcosa di ovvio così a lungo, oltre che per aver perso una preziosa mezz'ora conducendo una donna a ragione, ma perché non potevano mai arrivarci da sole? Si chiese. Non sprecò altro tempo e le depose un bacio frettoloso sui capelli prima di allontanarsi guardando l'orologio. Il giorno dopo, mentre Ingeborg stava aggiungendo delle patate nel tegame della cena, provvedimento che semplificava parecchio la sua cucina, produsse un breve grido strozzato e si girò in direzione di Else con uno sguardo colmo di incredula sorpresa. Geht los! Le chiese Else, sospendendo l'asciugatura di un mestolo di legno. No, non so, le rispose Ingeborg con il respiro un po' affannoso. No, aggiunse dopo un breve intervallo che le due donne avevano trascorso fissandosi a vicenda. Non era nulla. E continuò con le patate. Ma quando poco dopo seguì un ulteriore grido, Ilse, con fare deciso, depose il canovaccio e, dato che Herr Dremel non era ancora rientrato, uscì per cercare Johann e ordinargli di imbrigliare i cavalli e di andare a prendere Frau Dosch. Per prima cosa, proferì Frau Dosch, arrivando 2 ore più tardi, sorprendentemente sbrigativa e con piglio professionale, se si consideravano l'età e il calore di quel giorno, occorre pettinare i capelli e raccoglierli in 2 trecce. E ancora più tardi, quando Ingeborg aveva già cessato da un pezzo di fingere o di tentare di essere qualsivoglia persona se non se stessa, quando il coraggio, l'altruismo e lo stoicismo, assieme al desiderio di compiacere Robert, ma chi era Robert? Erano ormai giochi da salotto buttati in un angolo durante uno di quei momenti in cui la morte stringe una morsa tenace, quando si ritrovò ridotta a un essere senza anima, a null'altro che un animale agonizzante, un unico groviglio di dolore. Un essere privo di cosa se non un corpo spaventevole e squassato, Frau Dosch iniziò ad annuire filosoficamente con il capo, mentre mangiava e beveva, prelevando dai vassoi che Ilse le portava senza sposa, commentando a intervalli regolari. Già, già, wann sein muss sein muss. Tali erano le consolazioni elargite da Frau Dosch. Capitolo 20. I succitati eventi ebbero inizio il martedì a mezzogiorno. Il mercoledì sera, a un'ora così tarda che i pipistrelli e le falene erano affaccendati in giardino e anche in casa già da un pezzo, Frau Dosch, con la testa scarmigliata e l'abito spiegazzato, posò sul letto accanto a Ingeborg un fagotto avvolto in fasce, da cui emergeva un visino color vermiglio, dicendo esausta ma trionfante: «Ecco qua!» Il grande momento era arrivato. Il momento supremo della vita di ogni donna. Herr Dremel era presente, arruffato e con gli occhi lucidi. Anche Ilse era presente, accaldata e raggiante. Era un maschio, un bellissimo maschio, annunciò Frau Dosch, mentre i tre stavano immobili in attesa che il primo raggio di Mutterglück apparisse rischiarando il viso riverso sul cuscino. «Ecco qua!» ripeté Frau Dosch, ma Ingeborg non aprì nemmeno gli occhi. Ingeborg era coricata su un fianco, la sua figura appariva accartocciata, rannicchiata su se stessa, e un braccio ricadeva penzoloni oltre il ciglio del letto. Gli occhi erano serrati, la bocca dischiusa e ciocche di capelli ingarbugliati e scuri per il sudore che li inzuppava aderivano al viso indifferente. «Ecco», disse di nuovo Frau Dosch, riprendendo il fagotto, poggiandolo di traverso sul seno della madre e rivolgendosi a lei in un tono di voce piuttosto imperioso. «Frau Pastor, svegliatevi! Guardate vostro figlio, uno splendido maschio, già quasi un uomo!» Poi prese il braccio di Ingeborg e lo compose attorno al fagotto, ma esso scivolò via, ricadendo inerte nella stessa posizione di prima. «Su, via!» la esortò Frau Dosch, sempre più scandalizzata, e piegandosi al di sopra della puerpera, le gridò all'orecchio: «Frau Pastor, svegliatevi! Guardate vostro figlio, un magnifico esemplare della razza umana! Ha un torace superbo, un torace che farà spezzare il cuore delle fanciulle, vi dico!» Ma il viso riverso sul cuscino perdurava nell'esprimere la più ostinata indifferenza. Herr Dremel si inginocchiò, così da essere allo stesso livello di quel viso, e prendendo tra le sue la mano che sporgeva dal letto, prese ad apporvi piccoli colpetti amorevoli. «Mogliettina», disse in tedesco, «è tutto finito. Apri gli occhi e gioisci con me per questa nuova felicità. Mi ha donato un figlio maschio.» «Ja, eben!» gli fece eco Frau Dosch con partecipazione. «Hai colmato il mio animo di gioia!» «Ja, eben!» ripeté Frau Dosch in tono più acuto. «Apri gli occhi e dagli il benvenuto stringendolo al cuore!» «Ja, eben!» disse Frau Dosch con indignazione. Allora Ingeborg aprì gli occhi con grande lentezza, compì uno sforzo sovrumano per sollevare quelle palpebre così pesanti e guardò in direzione di Robert, come se lo stesse osservando da un altro pianeta. Il viso era privo di ogni espressione, la bocca aperta. Frau Dosch afferrò il fagotto e, schioccando la lingua, lo fece ballonzolare fra le facce dei genitori in modo che lo sguardo della madre non potesse evitare di vederlo. Il contenuto violaceo, lì ospitato, prese a vagire. «Ah, ecco bene!» esclamò Frau Dosch, intimamente preoccupata per l'assenza di qualsiasi commento del nuovo nato, mentre veniva lavato e avvolto in fasce. «Il primo vagito di nostro figlio!» rimarcò Herr Dremel, baciando la mano di Ingeborg con profonda emozione. «Ora riproviamo!» disse Frau Dosch, deponendo ancora una volta il bambino sul petto di Ingeborg e accompagnando il braccio di lei a cingerlo. Questa volta però prese la precauzione di trattenerlo con fermezza attorno al fagotto. Oh, che individuo perfetto! Esclamò. Frau Pastor, che cosa dite al vostro primogenito? Ma Frau Pastor rimaneva in silenzio. Sentiva le palpebre calare sugli occhi ed escludere alla vista il mondo e tutta la sua vitalità. Aveva l'impressione che i suoni prodotti dalla persona attorno a lei provenissero da miglia e miglia di distanza. Sentiva un sibilo nelle orecchie e una remota oscurità nell'anima. Da un angolo imprecisato dello sterminato oceanico nulla in cui stava sprofondando, dal punto a cui proveniva quel ronzio, giungevano anche suoni deboli e lontani che parevano delle sillabe. Voleva ascoltare, lo desiderava fortemente. Allora perché coloro che le stavano attorno continuavano a ripeterglielo? Brandelli di parole turbinavano nel suo pensiero, ripetutamente, poi ancora incessantemente, pulsanti e ritmate come lo sferragliare delle ruote di un treno in corsa, le ruote di quel treno che tanto tempo prima l'avevano portata fino alla sua casa tedesca. L'eco però le appariva ora più distante, più stemperata, come in sordina. Dalla guerra e dall'omicidio. Sì, ecco, ora riuscivo a dire più chiaramente. Dalle donne in travaglio. Sì, ora sentiva bene. Da tutti i malati e poi ancora da bambini appena nati e poi continuava con liberaci, o Signore. Oh, sì, per favore. Liberaci, o Signore, per favore. Liberaci. Forse un po' di brandy? Suggerì Erdrammel perplesso. Brandy? Se non riesce a risollevarlo il suo stesso figlio? Herr Pastor non sa forse che ha una puerpera, si somministra soltanto un po' di brodino? Erdrammel, sentendosi ignorante in materia, lasciò cadere l'idea del brandy. La mano è piuttosto fredda, disse quasi in tono di scusa. Che cosa ne sapeva lui, infatti, se era fredda perché così doveva essere? Frau Doscher ribatté che no, non lo era, ma se anche lo fosse stata, non sarebbe mai potuta essere fredda quanto il suo cuore. Guardate qui, lo apostrofò. Guardate questo bellissimo bambino che si rivolge a sua madre nell'unica lingua che conosce e lei non lo degna nemmeno di uno sguardo. Su, vieni ragazzino mio, vieni. Qui non siamo voluti. Vieni da zia Dosh, la vecchia zia Dosh. E rimuovendo il bimbo dal petto passivo della madre, lo cullò camminando per la stanza avanti e indietro, battendo leggermente sulla parte posteriore nel modo in cui l'esperienza le aveva insegnato a consolare il pianto. Poi lo mise nella cesta azzurra posta su due sedie e pronta per l'uso. Bene, bene, disse Herr Dremmer rialzandosi, dato che le ginocchia gli incominciavano a dolere, guardando al contempo l'orologio. Sarebbe ora che andassimo tutti a letto. È mezzanotte passata. Domani, dopo una bella dormita, mia moglie tornerà a essere se stessa. Si avviò verso la porta, seguito da Else, che reggeva una delle due lampade che diffondevano nella stanza ulteriore calore. Poi si arrestò e gettò un'occhiata all'indietro. Ingeborg giaceva immobile come prima.